Niente, il corteo degli studenti universitari è stato caricato dai carabinieri in questo momento. Il corteo degli studenti medi è stato caricato anche quello all'altezza di Piazza del Duomo. La determinazione è tantissima, siamo migliaia, c'è una testa di cordoni con i caschi in questo momento che sta facendo pressione sui cordoni per bloccare le città. Oggi la mobilità a Milano è davvero difficile. Scusate, ma è appena partita la carica, c'ho il fiatone, per cui un momento. Niente, in questo momento appunto abbiamo il corteo da questa mattina, si è garantito metro per metro. Non c'è stata assolutamente disponibilità da parte delle forze dell'ordine. Ricordo che mercoledì, dopo gli scontri che ci sono stati prima nella cittadella universitaria e poi a Loreto, insomma, i carabinieri si sono resi protagonisti di diversi traumi cranici a studenti, anche medi. Oggi in piazza abbiamo trovato solamente carabinieri a sbarrare il nostro corteo. Assolutamente non esiste una presenza della polizia dopo quello che era successo mercoledì in piazza. Appunto, la polizia e i carabinieri hanno anche litigato proprio perché i carabinieri volevano caricare e la polizia no. Oggi un segnale chiarissimo da questa mattina, appunto, cordoni di carabinieri che bloccavano tutti gli accessi per deviare, insomma, per partire con i cortei selvaggi. Siamo comunque riusciti a passare dalla sede dell'ISU, che è l'ente per il diritto allo studio, a denunciare appunto le politiche abitative in tema di università. Abbiamo denunciato l'ISU lì, insomma, i primi fronteggiamenti, fino poi appunto il corteo si è conquistato il suo percorso metro per metro fino all'altezza più o meno di Cordusio, dove poi svoltando a destra è stato caricato dai carabinieri. Però appunto è rimasto compatto. Senti, ora com'è la situazione? Mi sembra abbastanza concitata da quello che racconti. Sì, no, le cariche sono finite o... In questo momento appunto ci sono schierati i cordoni della Celera, appunto i compagni delle facoltà si stanno incordonando, insomma, coi caschi, si sta formando una testuggine. A breve si proverà a ricontrattare un pezzo di corteo verso il centro, appunto per continuare questa giornata. Ad ecco di nuovo la Celera sta bloccando il corteo, in questo momento si stanno avvicinando gli ufficiali, insomma, no, pare non ci sia possibilità di muoversi se non quella di ricongiungersi al corteo degli studenti medi, che è stato anche quello caricato all'altezza di Piazza del Duomo. La tensione sta salendo in questo momento. Senti. Ci sono fronteggiamenti. Ascolta. Ci sono fronteggiamenti, il corteo avrà almeno 3.000-4.000 persone, c'è una testa davvero massiccia. Ascoltami, ci sei? Allora, sì. Cosa c'è di vero nella denuncia che ha fatto... Cosa c'è di vero nella denuncia che ha fatto Decorato poco fa su un assalto a Palazzo Marino? No, stanno caricando di nuovo. Allora, vai. Stanno... Cordoni! Facciamo i cordoni, ragazzi, davanti, quelli coi caschi! In questo momento c'è l'accelere che sta correndo sui lati del corteo. Cioè, ci sono fronteggiamenti in questo momento. È stata qualche manganellata, ecco che ci stanno... Cordoni! Cordoni! Ecco. Senti. Altre. Ecco, adesso in questo momento stanno sbarrando la via, ecco che si avanza, carica. Si stanno per caricare. Ecco, c'è un fronteggiamento corpo a corpo. In questo momento siamo fermi davanti ai carabinieri. Fermi, ragazzi, fatemi passare. Oh. Ragazzi, fermi. No, fermi, ragazzi, fermi. Allora, ci sono fronteggiamenti con la polizia, c'è un corteo davvero determinato. Un attimo, chiediamo alla polizia di farci passare! Non respiro, cazzo, porca puttana. Dio cane. Oh, oh, Dio porco, fermi. Sta caricando altre, sì, due manganellate, ma contenute. Oh, qua si stanno ribaltando cassonetti. Cioè, ci sono cordoni, c'è fronteggiamento con i carabinieri. Ci sono fumogeni, torce che volano. Si stanno spostando i cassonetti. Allora, chiediamo alla polizia di spostarsi e farci passare. Due passi indietro, polizia, due passi indietro. Rimaniamo incordonati. Chiediamo alla questura di spostarci. Oggi è la nostra giornata. È la giornata della determinazione. Manteniamo i cordoni. I compagni con i caschi vengono avanti. Ecco che arrivano altri plotoni in rinforzo. Forse non ci siete neanche più. No, ci siamo. Li stiamo lasciando liberi. Noi ricordiamolo per chi ci sta ascoltando. Questa è Onda Rossa. Questo è il corteo di Milano in diretta. È il corteo di Milano in diretta che in questo momento sta subendo una e più ripetute cariche. In questo momento stanno sbarrando tutti gli accessi. Ci sono almeno tre reparti che sono venuti in soccorso. Compagni, si stanno organizzando su tutti i lati, ci sono cordoni su tutti i lati con le protezioni, con i caschi. Cioè davvero, davvero una cosa che non succedeva da anni, veramente. Sì, la settimana scorsa a Milano era stata... Mi senti? Sì, tra l'altro, sì, faccio fatica a parlare. No, allora appunto, ora magari parlo un attimo io. La settimana scorsa Milano è stata l'unica città in cui la polizia, insieme a Firenze, forse ha risposto in maniera molto decisa e molto determinata, impedendo di fatto che alcuni cortei si muovessero e sfogando la loro repressione e la repressione soprattutto nei confronti degli studenti medi. Ricordiamo che siamo in diretta con Milano, dove è l'unica città al momento dove ci sono cariche ripetute da parte delle forze dell'ordine. Andiamo anche a ricordare, non so se tu sai qualcosa, perché Decorato sta lanciando delle accuse nei confronti degli studenti rei di aver assaltato Palazzo Marino. Sì, assolutamente sì. Ecco, è arrivata la voce che hanno caricato in Piazza Duomo in questo momento l'altro troncone dei tecnici, il CCS, sono volate botte, si è arrivata la chiamata, per cui appunto a Milano sono tre i cortei che in questo momento vengono caricati. E appunto in questo momento sì, è arrivata la voce anche a noi appunto di quello che insomma Decorato sta facendo, sta contando i danni. In realtà quello che sappiamo, sta anche chiedendo nominativi delle persone, scusate, faccio fatica a parlare, per mandare i danni a casa. Ecco, io vi voglio solamente dire che in questo momento in piazza sono arrivati i dirigenti dello stadio, appunto, sì, della curva. Se ne sta andando la cella Digos, che si occupa di solito, ecco, della sinistra extraparlamentare, si sta spostando, sono arrivati la Digos dello stadio, ecco. Un altro segnale molto chiaro. Sì, più che chiaro, no? Molto, molto chiaro. Certo, quando... Niente, adesso in questo momento ci sono cordoni di gente su tutti i lati. Guarda, rimaniamo così. Ti faccio prendere un po' di fiato e ci sentiamo tra 5 minuti. Dai, ciao. Va bene? Dai.